La penna è davvero più potente della spada. 24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Avanti o popolo alla riscossa, bandiera rossa, bandiera rossa. Avanti o popolo alla riscossa, bandiera rossa trionferà. Sono 5 anni che sono segretario, tutte le volte che dico qualcosa dicono che lo dico perché voglio fare un partito politico. Io non ci penso proprio. Sindacato in Italia ha sempre fatto politica, sempre. Evviva il socialismo della Non credo che Landini abbandoni il sindacato. Se mi permette una battuta, è il sindacato che ha abbandonato Landini. Senza schiera, la pure innalzi, rossa bandiera, o proletari alla riscossa, bandiera rossa trionferà. È una sciocchezza pura, perché io vorrei far notare a Renzi che la FIOM, il sindacato che io rappresento, ha 350.000 iscritti, più del suo partito, perché mi dicono che dichiara 100.000 iscritti. E la gente che è iscritta alla FIOM paga l'1% tutti i mesi, noi non facciamo cene da 1.000 euro. È evidente che per Landini l'impegno in politica io lo considero scontato. Avendo perso la battaglia sindacale dovrà giocare la battaglia politica. Offre spera, sia pronto l'ora della riscossa, bandiera rossa trionferà. Quello che le sto dicendo è un'altra cosa, le sto dicendo che c'è un Parlamento eletto con una legge incostituzionale, un Presidente del Consiglio che non è stato eletto, che sta cancellando lo Statuto dei Lavoratori, che è l'applicazione della Costituzione, senza permettere ai lavoratori di dire quello che pensano. Rossa, bandiera rossa, bandiera rossa, avanti o popolo alla riscossa, bandiera rossa trionferà. Allora, sarà Landini l'alternativa a Renzi? Ma. Mamma mia, arriva. Mi arriva un messaggio così in presa diretta da Tonio. Ci scrive al 349-238-6666. Buongiorno, Tonio. Landini mangia i bambini. La pure innalzi, rossa bandiera. Proletari alla riscossa, bandiera rossa. I bambini, manco fosse un comunista. Vabbè, no, non mangia i bambini. Certo, è molto aggressivo e poi si parte piano, poi alla prima domanda proprio e niente, c'ha la faccia da metalmeccanico appena smontato da 8 ore di turno, è sempre arrabbiato, sempre. Vabbè, fa parte un po' anche dell'essere il leader della FIOM, Buongiorno a tutti, Oggi sentite con che ritmo da marcia vera del proletariato che marcia. Iniziamo questa 24 mattino. Sono le 6 e 32 minuti, mi viene da parlare così proprio a ritmo. Saluto Lorenzo Nespoli. Socialisti alla riscossa, bandiera rossa trionferà. E l'Alpino trionferà. L'Alpino è Peter Bescapè, che saluto qui in regia come sempre. Bandiera rossa la trionferà. Socialismo e pace, libertà. E allora è il momento intanto di salutare la Chiara Geloni. Buongiorno, eccola qua. Buongiorno. Non ce l'ha fatta Buongiorno. Bersani e quindi ci si affiderà a Landini. Pronta? Sì. prontissima. non ho tanto capito se è vera questa cosa, no, che Landini si mette in politica, no. Ma certo, insomma, io sono pronta, insomma, se c'è da andare contro Renzi, proletaria la riscossa, io. Se c'è da andare contro Renzi, io sono pronta, ecco, Chiara Genone. Ma no, è pronta. Io sono pronta alla riscossa del proletariato. Ah, alla riscossa, quindi, alla riscossa. Non posso non farmi trovare. Non puoi. Vabbè, allora, mentre abbiamo Chiara Geloni, e con noi c'è anche, ci sarà. E beh, ormai. Ho capito. Chiara Geloni, ho capito. Sarà l'Aurora. Ho capito. Chiara Geloni ha vinto, come nel canzoniere. Net Aurora Lussana ha vinto, sì. Ma buongiorno, caro Milan, un caro saluto anche a Chiara Geloni, saluto ai tanti amici di Radio 24 e anche tanti proletari e non, quelli che sono talmente poveri che non ce l'hanno neanche più la prole, quindi non so come definirli poveri, ma proletari tanto siamo sicuri prole. Che i neoproletari, post-proletari votano sicuramente la Lega, non certo chi porta i soldi in Svizzera. Ah, eccolo lì, non certo chi porta i soldi in Svizzera, stai attenta perché tu vivi vicino alla Svizzera, secondo me, ti hanno visto andare così, fare dei viaggetti ultimamente. Magari per fare la benzina. No, adesso che col franco non conviene. No, ma che è ancora abbastanza conveniente. È ancora conveniente, vabbè. Sì. Fa sul pieno di benzina, la Lussana va in Svizzera per fare queste cose, vabbè. Ma no, ha fatto la carta sconto benzina, ma tu pensi di fregare quelli della Lega, lo sai cosa hanno fatto quelli della Lega Lombardia? Sì. La carta sconto benzina, chi vive vicino al confine, proprio per evitare questi trasfrontalieri qui della benzina, possono fare il pieno in Italia, in Lombardia, e risparmiare un botto. Te pensi di fregare quelli della Lega? Quelli della Lega te la mettono in saccoccia sempre. Vabbè. Sempre e comunque. Vabbè. C'è Lorenzo Nespoli che annuisce, non capisco. Sei leghista? C'hai lo sconto? Ah, sì, vive a Cantù, e quindi. Sa tutto. Va bene, apriamo il Parlamento, dai, che ci sono tante cose da affrontare. Adesso vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo più tardi, grazie. Ministro Boschi, che non dichiara da qualche giorno, adesso magari una dichiarazione. Pensando al babbo. Ma non lo sappiamo se sta pensando al babbo. Comunque una dichiarazione adesso noi la portiamo via, la strappiamo. Cara Chiara Geloni, dai, ma no, adesso veramente tu non sai se questa cosa sia seria o no, ma neanche Landini lo sa se sia seria. Mi pare che l'abbia presa molto più sul serio Renzi di Landini. Sì, effettivamente sì. Sì, però, può rinascere la riscossa anti-renziana da Landini? Mi sembra un pochino strana come cosa, no? Sì, anch'io sono un po' scettica, ma ti ripeto, mi sembra che sia scettico soprattutto lui. Mi sembra che Landini non sia portato, ecco, per questo tipo di impegno, mentre è molto bravo a fare quello che sta facendo attualmente, ma insomma vedremo, credo anche che partire dal nome del leader, insomma, se fosse solo quello sarebbe purtroppo anche più semplice di come invece è. Ti piace quando a un certo punto ha tirato fuori uno dei classici, delle classiche accuse: chi l'ha votato a Renzi? Non l'ha votato nessuno? Ma insomma, questo è un argomento piuttosto discutibile, perché ovviamente sappiamo che i presidenti del Consiglio non si eleggono con la Costituzione italiana, il meccanismo è un po' diverso, è il Parlamento che dà la fiducia. Sì. Certo che Renzi usa il consenso di qualche milione, ma non tanti, 2 milioni di persone che l'hanno votato alle primarie, come se ci fosse stato, peraltro per fare il segretario del PD l'hanno votato, non per fare il premier, come se alle sue spalle ci fosse stato un plebiscito che lo ha portato a Palazzo Chigi sull'onda di una sollevazione popolare. In effetti è vero che non è andata proprio così. Non è andata così, però ci sono state le votazioni alle europee, le votazioni anche alle europee. Sono state un momento di grande consenso. Sì, ecco, si sa, anche Aurora Lussana converrà che alle europee la gente mica votava per il Parlamento europeo, si vota per i simboli. Per gli 80 euro, vabbè. Per tanto, sì. Però no, perché è stato però bellissimo, votato. Straordinario. Stato... No. Il ragazzo ci sa fare. Il nostro principe fiorentino ci sa fare. Principe Insomma, Fenty. Incrocia anche un momento in cui credo di non offendere nessuno dicendo che la destra si è fatta trovare abbastanza appunto non si offende nessuno, è incredibile che l'alternativa possa essere Landini. Questo vuol dire, Aurora, a parte la Lega, che effettivamente nei sondaggi va bene, ma la Lega non è che può ottenere più di un tot, anche se volete andare anche a Canicattì, ho scoperto, ma voglio dire, vuol dire che proprio il deserto dei tartari nella destra, questo è... Ma guarda che il centrodestra ha perso non per la capacità straordinaria del centro, no, per demerito suo, per incapacità di costruire un'alternativa. C'erano troppi cialtroni e l'elettore medio di centrodestra, per esempio, un cialtrone principe con la C maiuscolo, troppi cialtroni, e quindi Salvini sta tentando la palingenesi del centrodestra e secondo me può anche riuscirci. Può anche riuscirci. Che fa dura. Però adesso ti devo fare la domanda. Prima devo dire che i messaggi si sono lanciati. Dopo Landini mangia i bambini. Leo dice: sono i bambini a mangiare Landini. No, i bambini non li mangia perché sanno di prete. Vabbè, Alex, per favore. Vabbè, c'è anche Renzi imbonisce i cretini. Niente, vabbè, le rime. E poi c'è anche un Aurora ti amo. Questo Enzo da Latina, ma tanto si sa, Aurora Lussana si sposa e non con Enzo da Latina. Ma ti devo fare la domanda, intanto la faccio Aurora Lussana perché è più... Tu sei Tosiana o Zaiana? Cioè stai con Tosi o con Zaia? Io sono forza. Per lo Zaiastan. Quindi sei sono per lo oltre. Zaiastan. Sì. E quindi a Tosi che cosa gli facciamo? Un po' di garrota, un po' di una piccola lapidazione? No. Sì, allora, io lo dico chiaramente. Se qualcuno nel centrodestra nella Lega sta tentando di far vincere Lady Like Occhi Blu, la splendida Alessandra Moretti, eccola, io propongo per questi qui una ceretta integrale a caldo, come Lady Like ci suggeriva di andare dall'estetista. Chi nel centrodestra invece di far vincere Zaia, fa vincere la Moretti, lo sottoponiamo a una ceretta. Ceretta, com'è che l'hai detta? Però una ceretta, perché ho capito che fa ancora più male quella che hai detto tu, a caldo. Perché ci spiegate un po' la differenza, Chiara? Ma non eccitarti mentre la Chiara ti spiega come si fa. Ho chiesto da ignorante, scusa, se queste cose non le so. Chiara, com'è la ceretta a caldo? Diciamo che nella ceretta a caldo la colla che serve per ottenere lo scopo viene prima scaldata dentro un pentolino. Ah, quindi è pure bollente. E poi spalmata con un mestolo di legno, tipo quelli con cui si fa la polenta. Cioè deve, esatto, e soprattutto no, lì e soprattutto, per fare la polenta ci vuole il tarello. Vabbè, insomma, ovviamente Tosi, però essendo leghista forse, ma Tosi per fare è il la grande polenta. Sindaco d'Italia, perché Verona Eccola è la città la meglio democristiana. No, Chiara, dille vabbè, qualcosa, la democristiana Verona è meravigliosa. Fino a un secondo fa ha detto ceretta a caldo per chi vuol far vincere Lady Like e adesso è il miglior sindaco d'Italia. Volevo dire, Verona è una città meravigliosa indipendentemente da chi faccia il sindaco, cioè nonostante cerchi di rovinarla. No, non dico questo, dico che effettivamente la Lussana conferma quello che dicevo, cioè perfino in Veneto, che è una regione dove storicamente la destra, il centrodestra ha ottenuto alcune tra le sue migliori performance, siamo al punto che appunto una sostenitrice della Lega, che è il partito peraltro più in salute del centrodestra, dice che qua si rischia di far vincere Lady Like. Alessandra Moretti, in effetti è esattamente quello che sta succedendo in Veneto in questo momento. Il centrosinistra è competitivo perché Renzi è bravissimo, la Moretti è bellissima, ma anche perché si sta dividendo il centrodestra su più di un però candidato. Dai, com'è che uno è bravissimo e la Moretti è bellissima? Bellissima. Era un riassunto che per carità non scaviamo qui. La Moretti è bellissima perché riportavi un parere. Però, ma tu, scusa Aurora, hai capito e sai spiegare ai nostri ascoltatori in 10 secondi qual è il problema? Cioè cosa vuole Tosi? Ah, perché Tosi vorrebbe una lista che fa riferimento a sé, alla sua persona, al suo nome, e Zaia invece vorrebbe eventualmente invece una lista legata al suo di nome, quindi insomma che rimanga a governare il Veneto Luca Zaia, che rimanga Ceretta calda per Tosi, Ceretta calda, Ceretta calda per Tosi, Ceretta calda per Tosi. Però tu dici è il miglior sindaco d'Italia. Sì. Sapete che però qualcuno la pensa in modo diverso? Chi? Sapete che c'è Chiara Geloni, tu sei una spettatrice della Rai, tipo di Uno Mattina. Ma tu non segui Uno Mattina, non sai cosa è successo ieri? Cosa è successo ieri? Ma non sai chi conduce Uno Mattina? Ma non è Uno Mattina. No, non è Uno Mattina, come si chiama? Vuoi dire a conti fatti? A conti fatti, vedi che sei tu, sai chi conduce? Sai chi conduce a conti fatti? Lo sa la Luciana. Lo conduce la ISO. Una splendida conduttrice, la Isoardi. Isoardi. Ah, ho capito. Chiara Geloni, ecco, Isoardi ti dice, sì, sai chi è Isoardi? È la fidanzata di Salvini. Vabbè, ma adesso questo lo dici tu, questo lo dici tu, però le cronache così dicono. E allora sapete cosa è successo ieri a conti fatti? Ma l'avesse detto lei, no? Vabbè, ma sapete cosa è successo ieri a conti fatti? È successo che Isoardi ha fatto un'inchiesta di quelle incalzanti. Ha detto è una vergogna, c'è una città dove i pensionati devono pagare 15 euro per coltivare gli orti. E questa città è Verona, dove c'è un sindaco che sbaglia. Ma davvero? Ma senti qui, senti qui. Esiste la protesta e vive, continua a vivere, giusto, per una tassa da pagare annua di 15 euro. Come mai, Furio? Cosa succede su Verona? Le due circoscrizioni hanno sempre pagato. Certo, e loro certo, no. Loro sono arrivati dopo e quindi adesso devono pagare. Ma la cifra è la grande inchiesta per la tassa da 15 euro annua, Geloni, annua. Tre volte tanto. Annua, annua, è una vergogna, il sindaco di Verona faccia qualcosa. Allora, sai cosa ti dico? E diciamolo tutti, che il Veneto ha bisogno di gente come Tosi e come Zaia, che si mettano d'accordo, che siano tutti contenti. Dai, così sei democristiana. E la Isoardi, io lavorerei a Sanremo. Oh, la Isoardi a Sanremo. Lei è brava, ma insomma, ho capito Chiara Geloni, cioè è una vergogna, la Rai ieri ha fatto questa inchiesta, ha scavato nel torbido degli orti di Verona, dove bisogna che la commissione parlamentare di vigilanza apra un'inchiesta. A un certo punto ha chiamato in trasmissione Roberto Bolis, il portavoce del sindaco Tosi, a battagliare con la Isoardi sugli orti. Sugli orti. Il congresso dell'Lega praticamente si fa dentro una trasmissione così. Sì, alla fine. No, fate pure, accomodatevi, prendetevi anche pure il caffè in diretta mentre vi telefonate. Alla fine al grido di viva Salvini la trionferà. Pensare che una volta state facendo un'esegesi perversa della trasmissione della Isoardi. Una volta i partiti occupavano la Rai. Vabbè, esatto. Invece adesso non succederà più. Sì. Comunque, cara Aurora Lussana, prima di andare al traffico, ti informo che Enzo da Latina dice va bene, se si sposa mi candido ad eventuale amante dopo il settimo anno. Sempre io. Beh, ma c'è la poliandria in molti paesi. Ah, mamma mia. No, magari lui no, vabbè, capito. Ma nel senso prima conosciamoci. No, io sto facendo il corso per fidanzati, quindi devo fare la cattolica ortodossa. Però dico, no, nel senso ha ragione, nel senso molte persone sposate poi condividono. No, un giorno ci fai sapere il prete con cui stai facendo il corso che vorrei scambiarci due parole? Prima il traffico, però il traffico. 24 mattino. Vorrei dire soltanto due parole, carabinieri, poveri, la polizia, poverina che non si può muovere, e i vigili, dove stanno? Sempre al bar, sempre al bar, io quando cerco un vigile sta al bar. Schettino è un eroe, a confronto di questi questori o di questi prefetti, cazzo! Ma come è possibile che l'ordine pubblico, l'anticrimine sia in mano a certi personaggi? Ciao Milan, tu sei un ottimo sfogatoio al servizio dei potenti, sai, te non tocchi argomenti diciamo delicati, fai un po' lo showman, fai parlare, fai sfogare, è una valvola di sicurezza per garantire il potere. Caro Milan, te avrai la simpatia per la tua Boschi, ma io penso che la signora Lussana, già il suo timbro di voce, la pone su un gradino molto alto del podio. Se la voce è quella che è, deve essere anche una bella donna. Tieniti il tuo caffè della Boschi, vai. Se la Lussana è una gallina, giuro su Dio che da domani apro un allevamento. Mi dimetto come geometra e faccio un allevamento di galline. Perché la scorsa settimana, spieghiamola a Chiara Geloni, hanno dato della gallina a Aurora Lussana, ma poi... Poi insomma adesso devi intervenire un po' più spesso da noi, Chiara Geloni, perché vedi il pubblico poi si affeziona, quindi mandate messaggi anche alla segreteria telefonica per Chiara Geloni, se no mi si ingelosisce giustamente, allo 02 46 52 4492, la nostra segreteria telefonica. Secondo me il primo messaggio lo manda Matteo Renzi alla Geloni. Il primo è Matteo Renzi? A lui bisogna presto, quindi può darsi. Sì, esatto, potrebbe, però sarà a lavorare, mica ad ascoltare. No, certo, no, sta compulsando le carte. Vabbè, sta compulsando le carte, cosa volevi dire? Perché non lo so, perché tutte le volte che leggo un articolo sulla vita di Matteo Renzi, la geografia di Renzi, è compulsa le carte, conosce il bilancio dello Stato, dico va bene, i colleghi giornalisti che si vedono la possibilità di intervistarlo, di vivere accanto a lui... No, ma operativo, ragazzi. Però io vorrei capire da Chiara Geloni come se la vive questo strapotere di Renzi, eh? Come te la vivi dall'interno tu del Partito Democratico? Tu che però... Più che altro dal mio divano lo vivo, non dall'interno del Partito Democratico. Vabbè, vivi l'atmosfera così, cosa si respira all'interno del partito, no? Su cosa farete battaglia adesso, voi della minoranza? Su il Jobs Act? No, sul Jobs Act c'è poco da fare, perché il Jobs Act era una delega al governo e certo. Adesso ha la delega e, come ha elegantemente fatto notare più di un esponente del governo, adesso fa come gli pare, perché i pareri del Parlamento, che erano unanimi e andavano tutti in una certa direzione, non erano vincolanti. E allora il governo ha ritenuto però che potevano votare contro il Parlamento. Sai, nel PD c'era stato dichiaratamente un accordo politico in cui Renzi si era impegnato col capogruppo Speranza a fare decreti attuativi condivisibili per la minoranza PD. E siccome appunto i pareri non sono vincolanti, ma evidentemente per Renzi non sono vincolanti neanche gli impegni presi all'interno del gruppo parlamentare con esponenti del proprio partito, lui ha fatto come ha creduto, che è suo diritto, intendiamoci, e quindi adesso credo che si aprirà un periodo di rapporti piuttosto tesi all'interno del PD, perché questa decisione legittima del governo ha ridotto tantissimo il peso, lo spazio di quelli che nella minoranza PD in questo anno hanno detto: ma bisogna mediare, vedete, con mediare, mettere d'accordo, facciamo valere il nostro parere, ma all'interno di una ottica di lealtà e di rispetto dell'impegno. Ecco, adesso queste persone si trovano un po' spiazzate, perché vabbè, bloccate la legge elettorale, fate qualcosa. No, non è che voglio istigare. No, non è che voglio istigare a nulla, però insomma, Aurora Lussana, qui c'è un Parlamento. La legge elettorale c'è un disaccordo, e quindi il disaccordo tornerà fuori. Tornerà fuori. Secondo me, se Chiara ci sarà anche alla Camera. Aurora, adesso, che dici? Non so gli impegni di Chiara Geloni sabato pomeriggio, ma se è in zona Piazza del Popolo, ore 15:30. Sì, la Lega, Renzi a casa, comizio di Matteo Salvini, ore 15:30, Piazza del Popolo Roma. In Piazza del Popolo alle 15:30, dai, un giro, passa di lì, così, conosci l'Aurora. Fatevi per favore, fatevi un selfie e ce lo mandate, solo così, dai, Chiara Geloni. Matteo. Ma no, con Aurora Lussana, vai lì. Aurora, volentierissimo. E allora, dai, fate un selfie. Ma con Matteo Salvini. Ma sì. No, Matteo giusto, c'è il Matteo giusto. Anche con Tosi, ah no, Tosi non c'è. No, ma non sì, lo che so. Viene anche il Tosi. Ah, viene anche il Tosi, il Tosi. Oh, Flavio Tosi, tutti, su, non fare il discolo, eh. Sabato ti vogliono a Roma, in Piazza certo del Popolo. Certo che lo vogliamo, alle 15:30. Sono pronti i pomodori. Dai, su, Tosi, Tosi, fai il bravo, che se no dopo si perde il Veneto, com'è, Lady Like, eccetera. Aurora Lussana, voglio far sentire questa canzone. Allora, pronte le mani sul pulsante, come prima sarà l'Aurora, per capire a quale cartone animato della vostra infanzia appartiene. Pronti, 3, 2, 1, via. Siete già in ritardo, eh? Dai! Heidi! Heidi! Chiara Geloni vince con Heidi! No, c'è una polemica perché torna Heidi in TV, ma è troppo magra. Eh sì, e quindi sai che su queste cose. Ma tu, Aurora Lussana, cosa vedevi? Non ho capito, Goldrake? Cosa vedevi? Dai, Heidi, per una giovane bambina leghista era perfetto. Ma infatti, Heidi, lassù, ma dai, su nei monti faceva un po' la ridotta padana. No, sì, no, no, poi amando molto la cultura nipponica, che è una cultura fatta di onore e di combattenti, e il bene e il male nei cartoni americani e giapponesi sono ben rappresentati. Quindi, però insomma, intanto, non c'è relativismo culturale. Però intanto t'ha fregato la Geloni su Heidi, cioè, l'onore nipponico. Vabbè, ma io in realtà devo salutarvi. Allora, Chiara Geloni, ci vai alle 15:30 sabato? Non dire adesso dovevo andare a fare una gita a Verona. No, forse ho un impegno. Ho un impegno. Ecco, vedi, lo sapevo. Avevo un impegno. Aurora, vabbè, ci devi andare a fare un giro. Vabbè, vengo a Roma, va bene, tutti a Roma. Dammi la ricetta. Dammi la ricetta in 10 secondi. Ovviamente in omaggio all'Islam, sì, e all'ISIS, sì, propongo cazzuola per tutti. Ah, vabbè, sì, li uccideremo con la cazzuola. Va bene, vi devo salutare, Aurora Lussana e Chiara Geloni, grazie. Volete dire la vostra? 02-4652-4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02-4652-4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Avanti, amici nostri debosciati d'Italia. Le 7:18 minuti. Come va? Siamo pronti a leggere i giornali, a approfondire poi dei temi dalle 8:15. Intanto torneremo a occuparci di abusivismo edilizio. Ieri sul Sole 24 Ore abbiamo scoperto che basta un'istanza al Presidente della Repubblica per fermare la demolizione delle case abusive. Avremo ospite il professor Paolo Berdini. Torna con noi, urbanista, così come avremo ospite il presidente di un comitato di Cava dei Tirreni che chiede la riapertura di fatto di un condono edilizio per la Campania. Ne abbiamo già parlato varie volte. Torneremo su questo tema, così come avremo ospite alle 8:40 il neo direttore responsabile di Charlie Hebdo, la rivista francese duramente colpita con l'attentato del 7 gennaio e che torna in edicola a partire da domani, dopo 50 giorni di sospensione delle pubblicazioni. Sarà con noi Gérard Biard alle 8:40. Intanto andiamo a leggere i giornali. In questo martedì 24 febbraio i titoli sono praticamente tutti legati alla Svizzera. Italia e Svizzera firmano l'addio al segreto bancario. Questo è il titolo di apertura del Sole 24 Ore. Per il Corriere della Sera, segreto bancario finisce un'era. Per Repubblica, mai più conti segreti in Svizzera. Slitta il piano, battaglia Grecia-Unione Europea.

Paola Guabello, c'è una nuova moda. Caro Lorenzo Nespoli, caro Peter Bescapè, preparatevi. C'è una nuova moda. Cara Anna Migliorati, c'è una nuova moda in arrivo. È arrivata qui Anna Migliorati. C'è una nuova moda in arrivo e la pagina e la stampa vi dedica una pagina. È il knitting. Knitting. Mi guardano e dicono, ma grooming? Ehi, sferruzzare con la maglia! Sferruzzare con la maglia! Anche per gli uomini, sempre di più. Ma chi se ne frega! 24 mattino. Siamo qui, sono le 8 e 20 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, vogliamo parlare di un tema che abbiamo affrontato varie volte, quello dell'abusivismo edilizio in Italia. Io non sapevo ciò che ieri ha scritto il Sole 24 Ore, cioè che per bloccare la demolizione di una casa abusiva o di un qualsiasi edificio abusivo basta una semplice istanza al Quirinale, al capo dello Stato, in questo nostro meraviglioso paese. L'Italia ha visto 13.000 persone che hanno fatto ricorsi straordinari per quel che riguarda condoni edilizi, demolizioni, al capo dello Stato. Con questo ricorso si impedisce, perché si apre una procedura lunga, ogni richiesta va esaminata con un provvedimento ad hoc che deve arrivare poi all'esame del Presidente del Consiglio, del Presidente della Repubblica, il Quirinale in persona, che deve poi fare un provvedimento e un pronunciamento ad hoc per ogni ricorso. Insomma, con questa modalità per anni si tira avanti. Sappiate che, scrive il Sole 24 Ore, fino negli ultimi 3 anni 3.000 sono stati ricorsi di questo tipo. Secondo Legambiente, solo 1 su 10 delle ordinanze di demolizione di immobili va effettivamente a buon fine. Cioè, per capire, le ordinanze di demolizione in Italia dal 2000 al 2011 sono state 46.760 ordinanze di tribunale, quindi esecutive. Di queste solo 4.956 sono state portate a termine. Numeri che credo non sconvolgano più di tanto, perché se ne occupa da anni, non fosse altro. Il professor Paolo Berdini, urbanista, ha un blog sul Fatto Quotidiano, ha scritto anche di recente il libro Breve Storia, qualche anno fa, Breve Storia dell'abuso edilizio in Italia, mentre oggi è in libreria con il libro Le città fallite, per Donzelli sempre. Berdini, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a voi. Non la sconvolgono queste cifre, se non altro perché lei le conosce, o devono sconvolgere forse noi che non le conosciamo? Sconvolgono sempre, cioè sembra che è un paese che sta dentro un buco nero che non riesce a risolvere. Evidentemente dobbiamo morire con l'abusivismo eterno, sarà un destino. Sarà un destino ingrato. Però guardi, Berdini, ho ricevuto una mail molto accorata, che inizia così: gentilissimo Alessandro Milan, insomma, in Campania si sta perpetrando un'ingiustizia sociale, perché in Campania, e ne abbiamo parlato varie volte, non è mai stata applicata una legge di un condono edilizio del 2003 che è stata invece applicata su tutto il territorio nazionale. E questo è vero, è successo così. La Campania, per una vicenda abbastanza complicata di corsi contro ricorsi, è rimasta fuori. E quindi molti cittadini della Campania chiedono la riapertura di una finestra di condono per poter usufruire anche loro di ciò di cui tutti gli italiani hanno potuto usufruire. Chi mi ha mandato questa mail è il presidente del Comitato Casa Sicura Cava dei Tirreni, si chiama Luigi Di Domenico, che saluto. Buongiorno e benvenuto, Di Domenico. Buongiorno, dottore. Buongiorno. Quante famiglie, se io dico quanti abusivi, lei non si offende, quanti abusivi rappresentate? Ma no, non mi offendo più di tanto, ce ne hanno detto di tanto, di tutti i colori, camorristi, delinquenti. Camorristi, delinquenti. Sì, no, sì. Vabbè. Dunque, io le dico subito che sicuramente ci sono in Campania oltre 72.000 case abusive, come sì. Le come le vogliamo definire. Sì, è così, case abusive. 72.000 e oltre, per cui giustamente bisogna anche individuare che tipo di abitazioni sono queste. E pensi un po' quanti milioni di persone andranno in mezzo alla strada se si potrebbe abbattere tutte 72.000 abitazioni, e questo, quelle che almeno e questo è certamente un problema sociale da affrontare. E quello che lei stava dicendo prima, spiegando al signor Vedina, è importante, in quanto proprio questa legge, che è la 326 del 2003, sì, perché va ricordato questo, che la Corte Costituzionale, la sentenza 4906, si è espressa dall'altro sulla legittimità delle disposizioni di legge in Regione Campania, la 1004. Sì, vabbè, non parli però per comunque, sentenza. Comunque questo fu poi detto incostituzionale dal governo regionale, fu fatto nuovo ricorso e dichiarato poi invece... Sì, ma infatti la vicenda, allora però di Domenico, segua me, la vicenda è chiara, la Campania è l'unica regione che non ha potuto usufruire di questo condono per una serie di ricorsi, controricorsi, e quindi voi chiedete, e come altri lo hanno fatto in Campania, la riapertura di questa finestra. Le ripeto, quante famiglie rappresentate voi in questo comitato a Cava dei Tirreni? Ma allora io sono sono almeno quelle accertate sono oltre 1.500-1.600, quelle non accertate saranno un 3.000. 3.000. Esatto. 3.000, cioè voi chiedete di poter condonare, perché, come li definisce, case che sono state abusive di necessità, si usa spesso questa espressione? Allora, si è dato questo vocabolo di necessità, che secondo me è importante, di vitale importanza, perché la casa è vita, la casa lo sancisce anche la nostra Costituzione, sono case di puri e sani lavoratori, non come speculatori, non come altro, solo per farsi casa. Ma mi faccia capire, era così complicato avere una casa senza fare un abuso? Ma sì, perché è tutto bloccato, è tutto fermo, perché abbiamo dei vincoli, soprattutto il nostro comune è vincolato completamente. Pensa che se uno vuole mettere dei pannelli per energia alternativa non lo può mettere, perché deturpa l'ambiente. Allora guardi, uno non può vivere tutti quanti nel centro della città. Io penso che l'urbano si dovrebbe spostare un po' verso il periurbano. Mi faccia anche capire, Di Domenico, la sua casa, sua personale, è abusiva in parte, è totalmente abusiva? No, ho un piccolo abuso anch'io, non lo nego, per carità. Che vuol dire piccolo? Una casa? Vuol dire che ho ampliato un po' una soffitta, tutto qui. Ha ampliato una soffitta. Professor Berdini, come risolviamo questa questione della campagna? Conosce il caso di Cava dei Tirreni, per caso? Sì, si conosce anche il caso di Cava, perché se ne è occupata la magistratura, dunque è abbastanza noto. Cioè, se davvero vogliamo prendere in carico i casi di necessità abitativa che esistono, fa bene il nostro interlocutore a dare i numeri, nel senso che rispetto a 70.000 ordinanze o case abusive ci sono 1.000 famiglie che fanno parte di questa associazione. Quindi immagino che questi abbiano davvero i requisiti di bisogno sociale. Allora stiamo parlando di numeri abbastanza limitati, cioè, possiamo dire che non c'è più l'abusivismo di necessità, è limitato soltanto a una piccolissima parte della popolazione. Mm-hmm. Allora, nelle leggi, con grande lungimiranza, questa è una norma che sta in vigore ormai da sempre, c'è la possibilità da parte dell'amministrazione comunale di non demolire l'abitazione, ma di acquisirla al patrimonio comunale e di darla a chi ha titolo, appunto le 1.200 persone, 2.200 famiglie che hanno titolo per avere un alloggio. Quindi c'è uno strumento, si potrebbe fare così. Ma però a quel punto noi ripristiniamo la legalità, questo che è importante, cioè togliamo finalmente questo alibi dell'abusivismo di necessità, c'è la scappatoia per aiutare chi davvero ha messo tutti i requisiti. A proposito di scappatoia, lei conosceva questa storia del ricorso addirittura al capo dello Stato? Questo ieri leggendo Il Sole veramente sono rimasto sconvolto, cioè, non c'è limite ormai ai leguleghi nell'Italia. Esatto, perché poi la questione è semplicemente si blocca tutto perché parte una procedura per cui ogni ricorso deve essere esaminato singolarmente, quindi esatto. Campa a cavallo. No, c'è tutto un limite, questa mi mancava. Questa mancava. Di Domenico, quindi voi chiedete questa riapertura, però ecco, le chiedo, mi scusi, una soffitta poteva anche non ampliarla, non è è una necessità avere una soffitta in più, eh? Per un figlio, per una questione personale di salute, ho preferito la mia galera alla vita di mia figlia. Beh, ma in galera, guardi, non si va per un abuso edilizio. Vabbè, tanto per dirle, perché se ne dicono tutte. Io ho sentito il dottor Medici, il quale noi ci stiamo attivando al comune di Cava dei Tirreni per l'acquisizione a patrimonio. Questa mattina, proprio per questi motivi, mi trovo alla regione perché aspetto una persona, sta arrivando, proprio per questi motivi. Ce lo saluti, non so chi sia, ma ce la saluti. No, è un consigliere regionale. Vabbè, ma non lo dica, magari non voleva farlo sapere il consigliere, però ecco, le chiedo questo. Anzi, se il dottore vuole, io posso anche passare per farti dire qualcosa della regione. Non so chi sia, no, ma le chiedo questo, Don Domenico, sa che ci sono parlamentari che hanno tentato di far riaprire i termini di questo condono in Campania, ma non ce l'hanno fatta, perché forse non è che lei può dirci che il condono è sbagliato come cultura, e quindi mi spiace che la Campania sia rimasta fuori, ma forse almeno in Campania non si fanno cose che non si dovrebbero fare in nessuna parte d'Italia. Ma non esiste solo, non si fanno solo perché in Campania si fanno dappertutto. Dottore, guardi che se lei va a guardare un po' e si gira intorno anche in Europa, abbiamo notizie anche su queste cose che io non mi permetto di entrare in una legislatura che non sono all'altezza sicuramente. Lei dice che un abuso sarebbe tollerato in Svizzera, che ne so, un abuso edilizio. Guardi, in Svizzera sicuramente no, perché in Svizzera in 8 giorni si ha il pezzo di terreno con una semplice raccomandata, si presenta la richiesta di progettazione, il comune gli indica come e dove smussare o fare, e in 8 giorni viene tutto a posto. Questo, invece, su questo, non si può neanche presentare. Su questo ha ragione Berdini, ha ragione Di Domenico a dire, se non altro spezzo una lancia da questo punto di vista. La burocrazia in Italia spesso affossa tutto, e quindi uno sbagliando, un cittadino sbagliando, ma legittimato da questa assoluta inazione dell'amministrazione centrale, dice vabbè, io che devo fare, mi faccio le cose da solo. Berdini. Sì, l'esercizio dei poteri da parte delle amministrazioni comunali è talmente devastante dal punto di vista del rispetto della legalità e dei tempi della risposta alle richieste dei cittadini, che c'è sicuramente, no, questo alibi, però attenzione, è un alibi, perché nel nord Italia le concessioni vengono date in tempi ragionevoli e non c'è abusivismo. Sì. Ma quindi secondo lei bisognerebbe riaprirlo questa finestra di condono per la Campania? Effettivamente loro dicono, noi abbiamo subito una sorta di, è paradossale dirlo in caso di un condono, discriminazione rispetto alle altre regioni. Sì, è un tema molto, molto complesso, perché lì è materia concorrente, dunque la regione non ha risposto, come sapete molto bene, nei termini, lì non c'è riapertura dei termini del condono, quindi è una situazione davvero molto, molto complessa dal punto di vista giuridico. Però insomma, almeno la facciamo finita con la possibilità. Almeno sì. Sentiamo che ci ha chiamato l'800240024 Fausto da Salerno. Buongiorno Fausto, dalla Campania. La linea telefonica un po' va e viene. Andiamo allora a Benevento, da Mariano. Mariano da Benevento, buongiorno. Buongiorno, sono Mariano e grazie per questa splendida trasmissione. Sono un geologo, io ho lavorato e lavoro sul monitoraggio ambientale da satellite, e volevo segnalare che secondo me noi dovremmo ringraziare il Padre Eterno che in Campania si sia tutto bloccato, perché lo scempio che si sta compiendo, che si è compiuto negli anni, è devastante. Io ho lavorato a un progetto per 2 o 3 anni in cui abbiamo rilevato tutte le nuove abitazioni su tutti i comuni della fascia costiera, 180 comuni. Sono state segnalate queste nuove abitazioni per verificare se erano scolari o abusive, e la maggior parte dei comuni, intendo l'80% dei comuni, ora il numero preciso non lo ricordo, non ha risposto. Cioè c'è un alibi dietro al non sapere. È chiaro, perché spesso le concessioni... voglia di avere voto politico. Ma anche perché Mariano, c'è questa cosa delle, come ci scrivono molti via SMS, delle utenze, e cioè che i comuni si prendono i soldi dalle utenze. Guardi, io voglio solo dire, gli allacci. Non è un problema politico, qui stiamo parlando di un problema di vita delle persone, perché le frane di 180 morti di Sarno, i morti di Cervinara, i morti di Ischia, sono figli dell'abusivismo. Se la gente non capisce che dietro questo problema c'è un problema di vita delle persone, un problema culturale. Ah, ma no, poi non lo capisco. Mariano, lei giustamente da geologo ce lo fa notare. No, ma è così, la gente non si rende conto che ormai se il sistema naturale è pieno, non possiamo spremerlo, perché altrimenti ne va delle nostre vite. Allora chi muore si piange i suoi morti e non può reclamare allo Stato. No, e invece Mariano succede che si costruisce, come raccontava di recente Gian Antonio Stella sul Corriere, si costruisce magari in zone dove c'è una frana e poi si muore e poi si piange e poi si piangono i morti. Scusate, apparirò cinico, ma sono lacrime di chi sapeva di mettersi in certe situazioni. Fausto da Salerno, l'abbiamo recuperato, Fausto? Sì, eccoci, buongiorno. Dica. Pronto? Sì, dica. Sì, salve, volevo intervenire su questa questione perché ci sono alcune precisazioni da fare. La prima, il terzo condono, quello che non sarebbe applicabile in Regione Campania, in realtà, diciamo, qualora venisse riaperta questa finestra, proprio per lo specifico di Cava dei Tirreni non avrebbe nessuna rilevanza, perché il terzo condono non consente di condonare appunto gli abusi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico come il comune di Cava dei Tirreni. Quindi è un falso problema questo del terzo condono, credo che il professore lo sappia perfettamente. Il terzo condono consente di sanare soltanto nelle zone sottoposte a vincolo, soltanto abusi formali, quindi piccoli abusi, diciamo sostanzialmente di opere conformi con gli strumenti urbanistici. Sì, sì. Ma c'è una situazione un po' diversa, perché Cava è realmente stata colpita da un abusivismo estesissimo, non so quanto di necessità, perché una soffitta, non... ci dice il signore Di Domenico, dice la soffitta per il figlio, non è molto di necessità, però vabbè, dica Fausto. Ma la soffitta in realtà, diciamo, si è costruito nelle zone agricole, si è costruito, ognuno ha voluto costruire dove aveva il proprio terreno, e se lei fa un volo con un elicottero oppure guarda semplicemente da Google il paesaggio campano da Cava dei Tirreni a Napoli, scopre che è un continuum edificato, cioè il territorio rurale è stato distrutto. Guardi Fausto, ma devo dire che anche un altro messaggio ci scrive Max da Cava dei Tirreni, cioè sono dispiaciuto proprio loro, cioè gli ospiti, l'ospite Di Domenico, sono coloro che hanno deturpato la mia bellissima valle. Di Domenico, gliela giro come considerazione, però facciamo così, perché io devo chiudere l'argomento, ma tanto è l'argomento sul quale torneremo. Ci sono anche tante telefonate. Ringrazio per il momento Paolo Berdini. Ricordo ancora, se volete comprare il suo libro Le città fallite, è molto, molto interessante, si parla di questo e non solo. Lo trovate per Donzelli Editore. Così come ringrazio Luigi Di Domenico. Devo andare in pubblicità. Quando rientreremo avremo ospite il neo direttore di Charlie Hebdo, la rivista che è stata duramente colpita con gli attentati a Parigi e che domani ritorna in edicola. Dopo una pausa, ci fu un primo numero dopo l'attentato, poi una pausa di 50 giorni, e oggi Gérard Biard sarà ai nostri microfoni per raccontare le nuove sfide di Charlie Hebdo. 24 mattino. Sono le 8:40 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, siamo sempre in diretta su Radio 24. Allora, domani esce il nuovo numero di Charlie Hebdo. Dopo una pausa, dopo il terribile attentato, 12 morti a Parigi, dopo che uscì il primo numero, e una pausa di 50 giorni. Domani il nuovo numero, in copertina su sfondo rosso, c'è raffigurato in bianco e nero un cane che tiene in bocca una copia del giornale mentre fugge inseguito da una folla inferocita di personaggi caricature. Si riconoscono tra questi Sarkozy, Marine Le Pen, il Papa e anche un jihadista. Io sono molto contento e lo ringrazio perché è con noi in diretta il nuovo responsabile di Charlie Hebdo, si tratta di Gérard Biard, a cui do il buongiorno. Grazie per essere con noi. Biard, voi dite: noi non vogliamo essere un simbolo, ma vogliamo solo far ridere. È possibile dopo quello che è successo? Ma spero che è possibile, perché se rimaniamo un simbolo è terribile, vorrebbe dire che siamo soltanto noi a portare questi valori che difendiamo, che sono la laicità, che sono la libertà d'espressione, che sono, diciamo, tutti questi valori che sono importanti in democrazia. Se rimaniamo un simbolo, vuol dire che tutti gli altri si riposano su di noi per difendere questi valori, non sarebbe terribile. Certo, voi so che non è facile, avete avuto momenti anche di grande discussione, lei ha detto no, io volevo riprendere subito, altri avevano bisogno anche di elaborare il lutto, elaborare il dramma di quello che è stato vissuto. Come si vive, come si convive con quello che è successo? Si figura un po' difficilmente, però ci siamo arrivati, cioè questo periodo che è stato un po', diciamo, tra, come si dice in francese, tra due acque, no? È stato un momento durante il quale abbiamo potuto riflettere, quindi ci ha permesso di fare questo numero che è il numero, diciamo, che se, come dice la copertina, si è partì, ci siamo di nuovo, no? Si ricomincia, chiedo, ecco, una curiosità, perché c'è anche il Papa tra chi insegue il cane che porta via Charlie Hebdo? Perché il Papa, cioè il rappresentante, no, della religione cattolica, ci è sempre stato addosso, quindi è naturale che si ritrova ai fianchi di Marine Le Pen, di Sarkozy, di quei jihadisti. C'è anche un banchiere, non so se l'ha notato, un cane con la cravatta rappresenta i poteri forti, diciamo. Ecco. I poteri forti. Senta, sì. È vero che è difficile trovare nuovi vignettisti che vogliono lavorare per Charlie Hebdo? È difficile, non è che non vogliano lavorare per Charlie Hebdo, è difficile trovare nuovi vignettisti, perché è un lavoro che è molto difficile, vignettista. Non bisogna sapere soltanto disegnare, no? Bisogna anche capire il contesto dell'attualità, bisogna avere referenze, quindi è un lavoro molto difficile, ci vogliono anni per fare un vignettista. Non è la paura, quindi, quello che ci sta dicendo, ma è proprio la difficoltà di preparare nuove persone. Appunto. Ho letto che, ed incredibilmente, che più volte in queste settimane è stato profanato il memoriale delle vittime. Ma come mai? Perché succede questo? Il memoriale sì. No, è stato profanato il memoriale di ci sono, cioè, camposanti, cioè sì, cimiteri, però non ho sentito che è stato profanato il memoriale. Un luogo che è stato messo in memoria della strage da alcuni cittadini, insomma, non quello ufficiale, però racconta dei giornali che più volte, insomma, ci sono stati anche magari gesti negativi. Forse, cioè, io non ne ho sentito parlare, però se ci sono stati, succede. Sono commentabili. Le chiedo questo invece: il presidente della Camera italiana, Laura Boldrini, non so se la conosce, ma nei giorni scorsi ha detto: fino a che punto non ci possiamo aspettare reazioni quando si ride di una religione? Cioè, ponendo sempre il tema dei limiti della satira. La satira ha dei limiti? Ma la satira ha le limite della legge, prima di tutto, e poi cioè non si tratta soltanto di satira, si tratta di un diritto, non si può dire che quando si usa un diritto si va troppo lontano. Quindi però lei non accetta, perché il Presidente della Camera faceva proprio notare che ridere di una religione, che poi è la causa, insomma, drammatica di tutto quello che è successo, forse è un qualcosa su cui riflettere. No, non ridiamo su una religione, ridiamo sull'uso politico di una religione, non è la stessa cosa. Quello che pensano, quello che credano i fedeli non c'entra, a noi non ci interessa. Ci interessa questo uso del potere religioso che vuole scendere in campo politico. Io ho due ancora domande, Gerard Biard. La prima è: ora le pubblicazioni saranno periodiche, settimanali, cioè riprenderete con il ritmo di prima? Sì, perché il titolo lo cambiamo, siamo Charlie Hebdo, Hebdo vuol dire settimanale, quindi... quindi non ci saranno più pause di no. 50 giorni. No, non più. Infine, però non so questo se ce lo può raccontare, se può farlo, come si vive, cioè come vivete proprio voi materialmente? Siete scortati, siete controllati, siete protetti? Sì, abbiamo delle scorte, protezioni, cioè... Viviamo come più o meno come un giudice antimafia, no? Che io faccio il paragono perché vuol dire che cosa sono questi assassini, no? Soprattutto non si tratta di religioni, si tratta di politica, si tratta di totalitarismo e hanno metode di mafiosi. Io la ringrazio ovviamente, in bocca al lupo, grazie Gérard Biard per essere stato con noi. Voglio ricordare direttore, il nuovo responsabile di Charlie Hebdo, da domani ritorna con le pubblicazioni. 24 mattino. Siamo qua alle 8:49 minuti, vorrei salutare Luigi da Napoli che ci ha chiamato sul tema dell'abusivismo, credo. Luigi, buongiorno. Buongiorno a lei. Dica. In realtà io proprio, o meglio i miei genitori, proprio 10 giorni fa hanno fatto questa famosa domanda di grazia al Presidente della Repubblica. Beh, di grazia adesso. Di grazia, perché in realtà... Di grazia, proprio una domanda di grazia. Sì, perché in realtà si chiede di annullare una sentenza penale, perché fondamentalmente parliamo di questo. Ah, quindi è proprio una richiesta di grazia. Sì, si fa. Di commutare la pena appunto dell'abbattimento in una pena pecuniaria. Straordinaria questa cosa. Però? Sì, ma è straordinaria relativamente perché la notizia è falsata. Cioè in realtà non blocca assolutamente lo sgombero e poi la demolizione. E io, o meglio i miei genitori sempre, sono l'esempio lampante perché è stato appunto effettuato questa... demolizione, che tipo di casa era? Totalmente abusiva? Totalmente abusiva. 120 metri di casa di due persone di 82 anni. Quindi voi avete fatto la richiesta di grazia, ma questo non ha rinviato nulla. No, però è stata rinviata per un motivo molto semplice, perché si sta omettendo una cosa fondamentale. La domanda di grazia viene fatta perché c'è una necessità reale, ma non una necessità, diciamo così, legale, tanto sì. Per rinviare e fare, ma c'è evidentemente un problema grosso, come nel caso per esempio dei miei genitori, dove c'è cioè reale perché si rischia di finire per strada per una questione economica, e soprattutto c'è una persona allettata che non può muoversi. Va bene, allora Luigi, no, ma io guardi, su questo tema torneremo, la ringrazio per questa segnalazione, terremo magari di scorta il suo numero di telefono se lei ce lo consente e proveremo a richiamarla quando affronteremo ancora questo tema. E allora, questo è il momento in cui, come sapete, chiamiamo ogni giorno uno dei nostri ascoltatori che ci segue dall'estero, abbiamo fatto il giro del mondo ormai. Oggi però vogliamo tornare perché c'è, già lo sento in sottofondo che mi deve far innervosire. Vogliamo tornare da colui da cui abbiamo iniziato tutto, cioè Remo, che è il nostro cuoco che ci segue dalle Seychelles, maledetto lui. Buongiorno Remo. Buongiorno, come state? Beh, noi benissimo, alla dig che temperatura c'è in questo momento? 30 gradi, 30 gradi. Il cielo si sta bene, rilassati, sì, è un bel posto, sì. Oggi poi sono di riposo. È un bel posto, ma soprattutto, caro Remo, ti abbiamo chiamato, tu non conti nulla questa volta, no scherzo, perché sono partiti dall'Italia, grazie al fatto di averti conosciuto qui a Radio 24, due italiani, due coniugi che sono venuti lì, quindi in pratica ti abbiamo fornito due clienti, quindi adesso vedi tu un attimo di darci una percentuale di tutto questo. Chi sono? Con il mio titolare. Chi sono, Remo? La signora Alessandra e il signor Fabio. Ce li vuoi passare? Chi è che ci passa? Adesso vi passo subito la signora Alessandra. Va bene. Buona giornata, capo. anche a te Remo. Pronto, graziato. Buongiorno Alessandra, sei partita per andare a trovare il nostro cuoco di La Digue. Assolutamente, stupendo, è venuta ad accoglierci al porto con il suo baracchino e la bicicletta, stupendo. Dai, di la verità, state facendo finta, sta piovendo a dirotto alla Digue. Sì, cioè, sì, ci sono, diciamo per gli italiani, sì. meno 5 gradi. Vabbè, ma siete andati lì perché avete conosciuto Remo grazie a Radio 24. Assolutamente, abbiamo sentito la diretta a novembre e mi sono detta, no, allora le Seychelles sono possibili anche per me. E quindi l'ho cercato su internet ed sono stati gentilissimi ed è molto abbordabile. Vabbè, ma consigli quindi a tutti i nostri ascoltatori di andare in vacanza alla Digue, questo? Assolutamente, gli unici italiani simpatici di tutte le Seychelles. Ah, vabbè, senti un po', ripassaci un attimo Remo che devo capire come vanno gli affari lì. Certo. Grazie Alessandro, avete buone vacanze. Remo, allora, come li prendi per la gola i nostri qual è il piatto italiano che va per la maggiore lì tra i turisti? Ma guarda, io faccio un po' di tutto, faccio tante paste, quindi riesco a fare la matriciana, la carbonara, finalmente fatta in un modo decente, perché in giro per il mondo si mangiano carbonara con i funghi, proprio stranissime. Carbonara con i funghi, ma che... Sì, si fanno di quelle cose in giro veramente, sono una roba... Vabbè, ma la nostra Alessandra, il nostro Fabio, invece come li hai accolti, Alessandra e Fabio? Ho fatto dei filetti dal mio coentro, del risotto col passion fruit, insomma, cosa un po'. Ma tu sei un maledetto, tu lo sai che ci stanno arrivando e arrivano messaggi di insulti, ovviamente arriveranno, io se non ci sono li creo io per insultarti, per quelli. Vabbè. Insultami pure. Vabbè, comunque... Tutto a posto. Ti aspettiamo qui. Ecco, ovviamente, guarda, io vengo con tutta la redazione, te lo dico, porto Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli, l'Alpino, Peter, te lo immagini l'Alpino alle Seychelles? Perfetto. Perfetto. Beh, io ne so qualcosa di alpini, quindi lo capisco benissimo. Sei alpino? No, però sono nato in Valle Camonica, cresciuto tra i monti, il cappello d'alpino a casa mia c'è sempre stato. Va bene Remo, un abbraccio a te, un abbraccio alle Seychelles, ad Alessandra, a Fabio, ovviamente buone vacanze, cerca di intrattenerli, vedi di... Certo, farò il mio meglio. Va bene, ma c'è un piatto delle Seychelles? Io non lo cucino, però a me piace moltissimo l'octopus, il polpo con latte di cocco e il curry, è buono. Ah, però... Complimenti. Ciao Remo, alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao a tutti, a domani. Ciao.